Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Con la vittoria di ieri sera all'Olimpico, anche la Juventus è tornata dunque in corsa per il quarto posto, che vede per l'ultimo anno vale per l'ultimo anno utile un posto ai preliminari di Champions League. Ne parleremo più avanti nei vostri interventi, ma ascoltando anche alcuni commenti dei protagonisti. Adesso direi di dare spazio alla vigilia di Barcellona-Real Madrid, perché è l'ultimo atto di una saga che da 18 giorni sta letteralmente incendiando la Spagna, ma direi non solo la Spagna. E allora, per cominciare, buongiorno a Fabio Tavenni. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Prima domanda, perché stamattina ho fatto davvero un salto aprendo i giornali, un giornale in particolare, ma davvero secondo te Abidal stasera va in panchina? Ma lui è convocato, io non lo escludo. Ieri è stata molto bella la scena con Abidal che è arrivato alla rifinitura, all'allenamento, tutti i giocatori sono messi in cerchio e hanno fatto un applauso ad Abidal. Gli hanno dato un 5, è stato molto bello, francamente inaspettato. Io immagino e spero che, ma sono sicuro che sarà così, che tutto viene fatto in massima sicurezza, però non mi stupirei. Non mi stupirei per due motivi, perché se è stato convocato vuol dire che comunque Abidal ricordo può, sì, magari per chi non lo sapesse, ecco, Abidal ricordo... è stato operato di tumore al fegato 20 giorni fa, 25 giorni no, fa. No, forse sono anche un mese. Sì, vabbè. Sarà un mese. Però un intervento, un grande intervento, come si chiama, in questi casi, come si definisce in questi casi, per l'asportazione di un tumore, sì, al fegato. Sì, ricordiamo anche Gigi che Abidal praticamente due giorni prima aveva giocato in campionato e che l'operazione era stata anticipata proprio perché la situazione sembrava molto grave. Poi è chiaro che qui noi ci fermiamo, nel senso che poi non eravamo lì ed è giusto mantenere anche una certa riservatezza. Può anche essere che una volta portato avanti l'intervento il chirurgo, i medici, insomma, si siano accorti che la situazione era migliore. Credo anch'io, perché insomma il decorso post-operatorio è veramente record. Siamo tutti felici naturalmente di questo, non è che ci mettiamo a questionare o a sospettare, anzi è una bellissima cosa, punto, cioè accettiamola e prendiamola per quello che è, cioè una gran bella notizia. Certamente sì, certo fa un po' sensazione che dopo così poco tempo da un intervento del genere un giocatore sia stato convocato, magari soltanto dato che in panchina Guardiola ormai ne ha pochi, perché insomma ci sono quattro infortunati piuttosto seri, la rosa già è ristretta e cose, insieme a tanti bambini avrà pensato magari di mettere una chioccia così per una questione sentimentale anche magari, però insomma era una curiosità iniziale. Adesso la domanda è che partita ti aspetti. Allora ricordiamo che il Real parte da 0-2 in casa e quindi ha necessità assoluta di andare a segnare almeno due gol in casa del Barcellona e senza subirne, cioè il 2-0 aprirebbe la strada perlomeno ai supplementari e metterebbe una paura blu al Barcellona. Questa è la grande domanda che si fanno tutti in Spagna, cioè questa remontada è possibile o è semplicemente qualcosa che sta nei conti della matematica ma non può essere? Sinceramente ci stupiremo, credo, tutti moltissimo se accadesse. Quello che credo io è che il Real Madrid dovrà giocare una partita finalmente a viso aperto ma con intelligenza, cioè non mi aspetto mai che il Real Madrid dal primo minuto si butti in avanti all'arma bianca, perché comunque il 2-0 è un risultato pesante, ma insomma, due gol possono arrivare in tutti i momenti. Il Manchester United insegna che si possono vincere le Champions League anche in 2-3 minuti. Detto questo, mi aspetto che il Barcellona faccia esattamente la stessa cosa con un po' di attenzione. Credo che il Real Madrid cercherà comunque di alzare subito i toni, magari non assaltando la diligenza, ma comunque cercando di innervosire la partita e di non lasciarla scorrere come la vuole lasciar scorrere il Barcellona. Credo che il Barcellona giocherà la stessa partita di Madrid, sinceramente. C'è una partita abbastanza compassata. Il Barcellona vuole vincere in casa, vuole schiantare il Real Madrid, ha grande desiderio di fare questo. ma non credo che si farà prendere dalla foga di voler chiudere tutto subito. Poi il calcio è strano, ci fosse un gol nei primissimi minuti spegnerebbe tutto se quel gol lo segnasse il Barcellona. Finalmente Mourinho deve, che non sarà in panchina e probabilmente neanche in tribuna, finalmente Mourinho deve mettere delle munizioni forti, metterà Benzema in campo al primo minuto, ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo opposto a Di Maria. Sono molto alte le possibilità che giochi Kakà dal primo minuto, grandi alternative non ne ha e quindi alla guerra, dirà lui, credo, nella prepartita. Sai Fabio, dato che questo, come sempre nelle partite di Coppa, nelle andate e ritorno, è in realtà poi il secondo tempo di una partita, no? Io ricordo certe partite dell'Inter a San Siro in cui l'Inter per esempio era sotto, me ne ricordo in particolare una, se la memoria non mi tradisce, con il Cagliari di Allegri, tra l'altro. In cui ad un certo punto l'Inter si trovò sotto, il Cagliari stava giocando splendidamente bene e Mourinho, che era partito con una formazione molto, molto guardinga, di colpo li buttò dentro tutti, cioè a un certo punto giocavano Pande, Ventò, Balotelli, non c'era ancora Pazzini ma c'era Milito, cioè c'erano tutti gli attaccanti, poi forse anche Quaresma di buona memoria. Tutti i possibili e immaginabili. Ora, dicevi tu giustamente che forse non lo farà dal primo minuto, però no, secondo me già la formazione iniziale somiglierà un po' a quella. E anche perché io credo, poiché le critiche principali che lui ha ricevuto dopo la partita andata sono state proprio sullo schieramento iniziale, sulla prudenza eccessiva, sul fatto che Real Madrid non avesse mai osato e non ci avesse mai provato, beh, perso per perso, può anche darsi che Mourinho dica: adesso vi accontento, vi metto tutti gli attaccanti che voi madridisti con la puzza sotto il naso invocate e vediamo come se la cavano. Sì, sono convinto che sarà così, dici bene tu, è diverso perché qui siamo il secondo tempo, si gioca una settimana dopo. È anche diverso l'avversario, perché insomma il Cagliari non è il Barcellona e viceversa. E questa cosa io non mi aspetto davvero, ti ripeto, che il Real Madrid vada dentro immediatamente col desiderio. Poi certo, se il gol arriva meglio per il Real, ma non per mettere lì alle corde il Barcellona, anche perché il Barcellona non si fa mettere alle corde. Il Real Madrid ha le munizioni per fare gol, perché Benzema comunque è un giocatore che può far male, e mi sono molto stupito che non abbia giocato lui il secondo tempo invece di Adebayor, che secondo me è entrato in campo solo per contrattare Piqué, cioè per fare lo stopper su Piqué sui calci d'angolo, esatto. E poi di fatto Adebayor non ha combinato nulla. Però Mourinho ha spesso cambiato buttando dentro tutti gli attaccanti, dimostrando che non ci vuole una scienza, no, superiore perché insomma, se hai bisogno di fare un gol metti un attaccante, o se hai bisogno di difenderti metti un difensore. Questo rientra nella normalità. Quando però lui ha messo tanti attaccanti dal primo minuto, spesso li ha fatti giocare in una posizione non consona. Ci ricordiamo tutti quando a Stamford Bridge Eto'o giocò praticamente laterale sinistro, e quando in tante altre situazioni Eto'o e Pandev fecero non certo i difensori, ma giocarono soprattutto sulla linea dei centrocampisti. Poi, detto questo, la palla è in mano ai giocatori, cioè gli allenatori possono fare tutto, però poi tocca a quelli che giocano in campo. Senti, io ricordo soltanto comunque che questa saga appunto dura è cominciata 18 giorni fa, sino ad ora è in parità assoluta, perché anzi direi che l'unico trofeo che c'era in palio finora se l'è portato a casa Real Madrid, perché questa è la verità. Sì, questo l'ha detto anche Guardiola, devo dirti che è come dire a uno che c'erano tre pretendenti e lui ha già conquistato quella racchia, ma le altre due... Certo, le altre due sono quelle che pesano di più, però nell'unica partita, cioè l'unico obiettivo finora che c'era davvero in palio in queste tre partite, se l'è portata a casa il Real Madrid di Mourinho. Sì, ecco, sì. Dopodiché è chiaro che se stasera il Real va fuori, allora con gli 8 punti in campionato che sono rimasti dopo le partite di domenica, di sabato, anzi più o meno molto in maschera, beh, allora diventerebbe una grande stagione per il Barça, trionfale, e pessima per il Real Madrid. Ma questo stasera dopo le 22:30. Ho letto un articolo sulla Stampa di stamane di Marco Ansaldo che ho trovato molto interessante sui rapporti Mourinho, che è una cosa di cui in Spagna si parla da giorni, sui rapporti Mourinho-Ronaldo, subito dopo l'intervallo per le strade. stando alla stampa di stamane, al suo inviato Marco Ansaldo, stando a una larga maggioranza di quotidiani spagnoli, i rapporti tra Mourinho e Cristiano Ronaldo, cioè tra i due portoghesi che avevano stretto non dico un patto di sangue, ma qualcosa di simile per la buona causa del Real, si sarebbe rotto la scorsa settimana durante e dopo la partita. Durante, per la plateale protesta di Ronaldo che invitava i suoi giocatori a provare a seguirlo nel pressing alto verso l'area del Barcellona mentre tutti stavano rintanati rispettando le disposizioni del tecnico. Dopo la partita, perché Ronaldo dichiarò che quello non era il suo genere di calcio e che lui si adattava a farlo obbedendo all'allenatore. Prima conseguenza, Ronaldo fuori dalla partita di sabato, ma fin lì poteva essere per farlo riposare, e invece pare che ci sia qualcosa di più. No, c'è sicuramente qualcosa di più, c'è il fatto che comunque trattasi di due personalità molto spiccate e con una potenzialmente in grado di oscurare l'altra, cioè il Real è il Real di Mourinho e non il Real di Cristiano Ronaldo, e Cristiano Ronaldo invece ci terrebbe a che insomma il Real Madrid fosse indicato come quello suo, quello del giocatore. Sono investimenti pesantissimi e quindi credo anche che da un certo punto di vista la società con Florentino Perez, che ha speso molto per prenderlo al Manchester United, voglia comunque tutelarlo. C'è un dato di fatto che forse per la prima volta un giocatore che nelle primissime battute, nelle primissime dichiarazioni aveva praticamente ripetuto come un mantra quelli che erano stati le dichiarazioni di Mourinho, cioè fino all'espulsione di Pepe avevamo la partita comunque in pugno, lo 0-0 lo volevamo e ce lo stavamo portando a casa, il Barça non stava facendo niente, sarebbe entrato Kakà. Tutto quello che aveva detto Mourinho, Ronaldo l'ha ripetuto, si è limitato a dire, e secondo me, cioè da un certo punto di vista può anche essere legittimo, perché se il tuo allenatore ti costringe a un atteggiamento che non è il tuo, magari forse non proprio dopo la partita, ma ci sta che prima o poi ti scappi. Stiamo sempre parlando di ragazzi di 20 e poco anni, certo. E quindi a quel punto lì credo che a Mourinho non sia piaciuto, proprio perché è stato un gesto di non presa di distanza, ma di piccola o media insubordinazione che Mourinho non è abituato a tollerare, non è abituato nemmeno che qualcuno si prenda la briga di dire gioco così perché me lo chiede lui. Cioè non è niente di sconvolgente in un rapporto diciamo abbastanza complicato nel quale un allenatore fa il suo e il giocatore fa la sua parte, e diciamo che la fa abbastanza bene perché di gol ne ha fatti parecchi. Ecco, diciamo che la partita di mercoledì scorso, secondo me, un minimo di frattura l'ha provocata. Tra allenatore e giocatore, io in questo caso sto col giocatore, come tra Van Basten e Sacchi stavo con Van Basten, proprio perché a calcio giocano i giocatori, cioè gli allenatori a parer mio hanno il compito di fare meno danni possibili, i più bravi sono quelli che non danneggiano e non ingabbiano il talento dei giocatori. Non a caso dall'altra parte Guardiola fa quasi sempre un passo indietro, palla a Messi e vediamo cosa fa, e spesso fa la cosa giusta. Senti, proprio degli allenatori che fanno o non fanno danni, sembrava che avesse fatto chissà quali danni quest'anno Ancelotti al Chelsea, no? Dopo l'annata strepitosa dell'anno scorso. Beh, se non ho capito male, io non so se in Inghilterra vale, anzi lo chiedo a te, se vale la differenza reti, sì, se vale il confronto diretto. Il primo parametro. E allora com'è la situazione esatta di punti, di partite che mancano? Allora, mancano tre partite. Sì. Il Manchester United ha 3 punti di vantaggio sul Chelsea, la differenza reti è pari, più 38. Mm. Quindi se il Chelsea vincesse, e tra l'altro la crudeltà ma anche la bellezza del calendario impone Manchester United Chelsea domenica 17:15 Old Trafford. Effettivamente sì. Discreta. Cioè, non è male, no. Non è male, questa è una finale vera, perché il Manchester United ha 2 risultati utili su 3, se vince o pareggia il campionato è finito. Se invece vince il Chelsea non solo aggancia ma di fatto supera, perché vincendo comunque avrebbe realizzato un gol in più, scavalcherebbe il Manchester United e a quel punto ha 180 minuti alla fine, con 2 partite non difficili con Everton e Newcastle, il Chelsea avrebbe il match point, cioè con 6 punti il Chelsea, dopo questi ipotetici 3 che potrebbe prendere Old Trafford, avrebbe vinto il campionato con una sorpresa onestamente pazzesca, perché è stato anche sotto di una quindicina di punti, sì, sì. Il Chelsea. Quindi, incredibile. Sarebbe veramente incredibile, e insomma il Manchester United onestamente ha perso un po' troppi scontri diretti, perché insomma ha perso quello a Stamford Bridge, ha perso quello contro l'Arsenal, e sai, gli scontri diretti pesano sempre tanto. Poi cioè, secondo me il Manchester United non perde quella partita, però se la perde ha perso il campionato, perché poi comunque lo United ha due partite non facili con il Blackpool e il Blackburn, che sono due squadre che stanno lottando per la salvezza, e sai, magari le vinci, ma magari ne pareggi una e a quel punto sei nei guai. E comunque fargli tanti gol non sarebbe semplicissimo. No. E poi non dipenderebbe più da te, saresti tu, sarebbero gli altri ad avere in mano appunto. Guarda, se il Chelsea vince Old Trafford domenica, il campionato è finito, a parer mio. Cioè, poi è in una situazione tale il Chelsea che poi non le altre due le vince in carrozza. E ripensando un mese e mezzo fa, la cosa letteralmente dell'incredibile. Ogni tanto arriva posta qua per te. Per esempio, questa è Stefano da Firenze che domanda: ha preso che la Germania ci ha scavalcato col famoso quoziente UEFA per le squadre che accedono alla Champions. Come mai la Francia ne ha sempre quattro? Domanda questo ascoltatore. A me, ne quattro, ha sempre quattro dove? Appunto, perché non ne ha affatto quattro, ne ha tre. E quindi, caro Stefano, non ci siamo. Un'altra, è semplicemente la Germania che ci sorpassa, ma la Francia. Sì, ma non da quest'anno, però no. Ricordiamolo, perché altrimenti non si scannerebbero tutti per il quarto posto. Il quarto posto, che è in realtà l'unica cosa interessante di queste ultime giornate di campionato. Il quarto posto vale ancora per un preliminare, dall'anno prossimo varrà invece in Germania. Cioè, in questo momento la quarta, il campionato tedesco, fa l'Europa League, mentre invece il Bayern di Monaco, che è terzo, fa il preliminare. Per quello che a Monaco di Baviera erano terrorizzati di arrivare ai quarti e di non andare a fare nemmeno il preliminare, ben sapendo che la finale l'anno prossimo di Champions League sarà l'Allianz Arena. Dall'anno prossimo per l'appunto il contrario. Sì. Invece Bruno Lofredo da Arezzo ti segnala, ammesso che tu non ne sia a conoscenza, ma non credo, che nel campionato olandese la situazione è Twente 71, Ajax 70 e PSV 68. Sì. E che all'ultima giornata c'è Ajax Twente, che però l'ultima giornata Ajax Twente, cioè la seconda contro la prima, sarà preceduta l'8 maggio dalla finale di Coppa d'Olanda Ajax Twente. E quindi insomma ripropone un po' il discorso di Spagnolo. Sì, no, non è un classico, perché la rivalità tra Ajax e Twente non è minimamente paragonabile. Un po' diverso sarebbe se fosse col PSV, ma comunque non saremmo a livelli della Spagna, anche per la cifra qualitativa. Però intanto a parer mio è molto bello che l'Ajax sia tornato a certi livelli. A me sinceramente un po' l'Ajax di qualche anno fa manca, no? Perché l'Ajax è sempre stata una squadra che, insomma, per chi è nato come me in fine anni 60 o anche i primi anni 70, l'Ajax ha sempre rappresentato punto di riferimento importante. Certo, il Twente è una squadra che ormai è emersa da qualche anno, il PSV più o meno è sempre rimasto lì, rimane comunque un campionato spesso saccheggiato dai club stranieri e di una caratura, diciamo, di seconda, terza fascia. Se consideriamo di prima fascia i grandi campionati, cioè quello di Spagna, di Italia, di Germania e della Premier League, poi magari ci mettiamo il francese, il portoghese e insomma, poi viene l'olandese, insomma. Fabio, io chiuderei con una nota, non so se chiamarla internazionale o forse di più, è ovvio che Sky è un grande gruppo di dimensione mondiale, però nel nostro piccolo pensa che per esempio ci seguono con attenzione non solo da parecchie parti del mondo grazie al podcast eccetera, ma per esempio arrivano due mail per la verità da Memphis, da un italiano che lavora a Memphis e che si chiama Giovanni Pazienza, che non contento di essere italiano e vivere e lavorare a Memphis ci suggerisce, ma con molto garbo tra l'altro, la corretta pronuncia di alcuni termini spagnoli che io sbaglio puntualmente. Uno è un nome proprio ed è Xavi e lui mi scrive Xavi. Esatto, perché lui dice addirittura Xavi, perché la dipende tra i catalani e la lingua spagnola c'è certo. Lui infatti ne fa un discorso catalano e dice la X in catalano si legge come la C in ciao o come il gruppo SC in sciare, quindi sì. Insomma da sa, come hai detto tu, Xavi. Io lo chiamo Xavi in quanto spagnolo, certo. Xavi mi sembra più catalano. Ad esempio io chiamo Pujol il capitano del Barcellona, ma perché me l'ha detto Alejandro Romero a Johannesburg prima della finale, mentre invece i catalani lo chiamano in un altro modo, lo chiamano Puyol. Ma c'è anche chi lo chiama Pujol, ma è comunque lui. Vabbè. E l'altro invece, l'altra correzione che fa è che Masia, e cioè la cantera del Barcellona, intanto sì. mi racconta che cos'è. La Masia è una casa di campagna, quelle che da noi si chiamano masserie, perché le strutture allenamento del Barça sono proprio sono strutture di questo genere adattate all'uopo, no? Sì. Masia va con l'accento sulla I, perché sì, è Masia. Sì, sì. Masia. Vabbè, da me, però questo da me, non è che ha scritto un catalano, capito? Ha scritto uno da certo, Memphis certo. che sta ascoltando, che ascolta la radio. Memphis nel Tennessee, se non ricordo Bravissimo. Volevo dare questo piccolo tocco di internazionalità. Lo salutiamo anche perché per ascoltarci in diretta dovrà alzarsi abbastanza presto al mattino. Ho l'impressione di sì. Giovanni, pazienza, grazie di queste cose. D'ora in poi cercherò di ricordarmi. Non mi dica però che Zanetti va pronunciato Zanetti, perché tanto non mi arrenderò mai. Quindi su questo Zanetti, Giovanni non c'ero. Zanetti, andiamo bene così. Zanetti. Fabio, grazie. A te Gigi, a presto, un saluto a tutti. Buon pomeriggio davvero. Un minuto circa all'intervallo e poi a un altro argomento che dovremo inserire. Quindi, giusto per sintetizzare come è andata ieri sera, sentiamo prima Del Neri e poi Reia. Il mio futuro lo vedo, sono 4 mesi che se ne parla, quindi non bisogna fare a me questa domanda. Beh. Prima di tutto, insomma, per correttezza. Non cambia niente perché non mi ha fatto una buona partita, sapevamo che potevamo finire bene questo campionato. Abbiamo fatto un po' di confusione davanti, una bella cosa, perché adesso siamo in tanti a giocarci questa finale e dire tante cose. Sono contento per i ragazzi perché veramente hanno giocato una partita di grande cuore, di grande fatica. Quindi direi che la squadra produce bene, pare che stia serena, tranquilla, che abbia voglia di far bene. E a 3-4 punti dalla zona importante, può giocarsela ancora bene, penso che... Se ha la continuità, se ha voglia di far bene questo diventa partite, potremmo vedere una Juventus finalmente che può ambire a lottare, perlomeno concretamente, per quello che era il suo sogno iniziale, cioè quello di riuscire ad andare in Europa. Ma niente, un po' di tempo che abbiamo qualcosa da recriminare, però non serve niente evidentemente a parlare oppure, come posso dire, dare dei giudizi. Penso che non sia più il caso. Voi avete visto, voi avete le immagini. E sotto questo punto di vista dovete valutare. Io non posso dire niente, devo solo parlare della gara. Abbiamo fatto un primo tempo con grande intensità, abbiamo chiuso tutti gli spazi, non abbiamo fatto ripartire la Juve, abbiamo avuto anche qualche buona opportunità. E poi dopo l'espulsione, questo è un rigore nettissimo, io ho visto dei rigori che sono stati dati e non so cosa deve fare Flocra, non so, forse lo devono sparare. Ah, Del Neri è seguito evidentemente Reia, perché la Lazio qualcosina da recriminare sul risultato di ieri sera effettivamente ce l'ha. Adesso l'intervallo per i mercati. Ma io chiederei ancora qualche minuto di pazienza agli ascoltatori già collegati. Perché? Perché stamane il Sole aveva anticipato una notizia che poi si è verificata, e cioè in questa bagarre sui diritti televisivi che è in corso in Lega, Marco Bellinazzo anticipava che con ogni probabilità l'assemblea odierna prevista per l'appunto in Lega sarebbe saltata. Le notizie delle agenzie lo confermano, l'assemblea di Lega è saltata e questo scontro si sta davvero radicalizzando. Fino a che punto, Marco? Beh, domani ci sarà una riunione della Corte di Giustizia federale che dovrà pronunciarsi sul ricorso delle 5 big. È stata convocata poi un'altra assemblea per il 16 maggio. Chiaramente ora dovranno o trovare le squadre un accordo fuori campo, oppure sarà la giustizia sportiva a dire chi ha ragione. Il problema vero di questo scontro è che da un anno che la Lega è spaccata e sta discutendo soltanto di questi benedetti 200 milioni di euro, e tante importanti questioni che invece il calcio italiano dovrebbe affrontare restano sullo sfondo irrisolte. Sì, in realtà io ho invitato te per competenza territoriale, forse avrei dovuto invitare, che ne so, un glottologo, faccio per dire, perché qua tutto si gioca, come è noto, in maniera abbastanza grottesca, a parer mio perlomeno, sul concetto di sostenitore, sulla definizione di sostenitore, tifoso, di appassionato. Perché? Ma perché l'identikit di queste tre figure, e poi magari ce ne sono anche altre potenzialmente possibili, su questo si gioca appunto la ripartizione di questi diritti. Però tu hai ricordato che è un anno che vanno avanti a sì, sta maniera. Ora, proviamo a chiarire una cosa: non è che le cinque big, cioè le Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma, rifiutano come dire, di applicare la mutualità prevista dalla legge Melandri, e che rifiutano di applicare soltanto la mutualità della legge Melandri, perché il famoso miliardo di euro che incassa il calcio italiano, la Serie A, dalle TV, tolta la mutualità, restano 800 milioni, c'è già una quota del 40% che viene divisa in parti uguali e quella è stata assegnata. C'è un'ulteriore quota del 30% che doveva essere meritocratica, cioè assegnata in base ai meriti sportivi. Sì. Di fatto però è stato congegnato quel meccanismo in maniera tale da annacquarlo e da renderlo sostanzialmente mutualistico, per cui anche quella fetta del 30% è stata ripartita in maniera più o meno paritaria. C'era un 5% che doveva essere assegnato in base ai residenti nella città in cui la squadra gioca. Si è scelto per esempio di un criterio che è quello del comune, che ha favorito sicuramente le romane, che come noto hanno una estensione territoriale comunale molto più ampia. Restava questo 25% che doveva essere assegnato appunto in base ai bacini di utenza. La legge Melandri parla del numero di sostenitori. Per le 5 big, il sostenitore è il tifoso, cioè chi segue una sola squadra e vive per quella squadra. Per le altre 15 squadre invece deve essere il sostenitore, cioè chi è appassionato, chi è partecipante, chi è simpatizzante. Sono queste le nozioni usate dalle 15 medio piccole. Sostanzialmente si sta cercando di utilizzare un criterio più ampio, più flessibile, che possa far aumentare ovviamente la quota di soldi che finiscono ai 15 club medio piccoli. Io farei una domanda finale per questo tuo intervento, di cui ti ringrazio sin da ora, che è questa: ci sono 5 squadre da una parte e 15 dall'altra, e questo scontro si sta radicalizzando. Le 5 squadre sono le grandi, tradizionali, e quindi vado in ordine alfabetico se ci riesco. Dovrebbero essere Inter, Juventus, Milan, Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. Queste sono le 5 e stanno da una parte. Dall'altra parte ci sono le altre 15. Capitanate dalla Lazio di Lotito. Che non a caso si è esposto in prima persona. Allora, la task force di Lotito risale a molto tempo fa. Ieri sera c'è stato un risultato che in parte, secondo me è una parte molto relativa, ma insomma in parte potrebbe anche essere stato orientato da decisioni arbitrali. Ora, sappiamo bene in che paese viviamo, secondo te è plausibile che con un solo posto in Champions League, che vale 20 milioni di euro circa potenziali, quelli che stanno cominciando a strillare al lupo perché dicono per pura combinazione vedrete che andranno a prendersi questo posto o la Roma o la Juve, e non che sono tra quelle 5, e non l'Udinese o la Lazio, che sono tra quelle 15. Allora, questo non so, mi mette un po' in difficoltà, però posso dirti questo, che magari non è giusto, come avveniva ai tempi della vendita individuale, ci sia una differenza tra big e squadre medio piccole di 50 milioni. Sì. Non è nemmeno giusto però che, considerando proprio materialmente la diffusione del tifo in Italia, tra squadre grandi squadre e piccole squadre ci siano 20 milioni di differenza soltanto, come si arriverebbe a determinare accogliendo i criteri delle piccole squadre. Certo. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Chi poi è curioso, queste cifre potrà leggere domani sul Sole, squadra per squadra, le pubblicheremo. È chiaro che si parla di questi 20 milioni che ballano, qualche dubbio ai tifosi della Lazio o di altre squadre più piccole può venire, e di fatto è l'ultimo anno in cui si può far festa, perché dal prossimo anno perderemo anche quel posto, quindi se lo giocheranno soltanto in tre squadre anziché in quattro. Ma la lotta e la polemica dura arriverà sul terzo posto, non ti preoccupare. Sta diventando però, ecco quello che voglio dire, concludo, una guerra fra poveri. Mm-hmm. Il calcio italiano si sta impoverendo, si sta indebolendo, e questo sarà a maggior ragione a partire dall'anno prossimo. Continuare a litigare per pochi milioni di differenza, perché poi di quello si tratta alla fine nella ripartizione finale, è chiaro che finisce per far precipitare tutti i discorsi sullo sviluppo complessivo del calcio, le leggi degli stadi e quant'altro. Abbiamo fatto tante volte questo discorso, mi sembra un atteggiamento assolutamente miope. Marco, se non ho capito male, domani esce sul Sole la tabella vera di ripartizione di tutti i quella, club. Perlomeno quella su cui hanno litigato. Quella su cui hanno litigato, perfetto. Allora, dato che domani è mercoledì e siamo al dopo Barça-Real, noi potremmo prenderci un bel appuntamento per giovedì e commentare, insomma, leggere squadra per squadra, approfondire. Poi, naturalmente, mi auguro che ci siano all'ascolto molti lettori del Sole che si documentano sin da domani, come dire, sul cartaceo. Ma giovedì dedicheremo una buona parte della puntata a questo e, già che ci siamo con le anticipazioni, anche alla crisi di crescita di una squadra che ti sta a cuore e che mi risulta essere il Napoli. Ne parleremo, sarà faticoso, ma ne parleremo. Molto bene. Allora, grazie a Marco Bellinazzo e spazio ai primi ascoltatori di giornata che in effetti oggi hanno avuto un po' più di pazienza del solito. Marco da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. No, io volevo intervenire sulla partita di ieri sera, sono un simpatizzante della Juventus. Ora però ho sentito il discorso di questi diritti televisivi, è interessante, no? È vero che queste squadre poi si litigano per accaparrarsi qualche milione di euro in più che... E poi il problema è sempre lì, cioè, diceva bene il dottor Bellinato, cioè, il problema è l'impoverimento del calcio italiano, perché la Juve ieri sera ha vinto una partita che non sa nemmeno come ha fatto e non cambia una stagione che può essere definita forse fallimentare e farle un complimento, ma hanno speso tanti soldi, hanno comprato tanto, poi il problema è come li vanno a utilizzare e anche qui basterebbe guardarsi un po' intorno, a parte il Barça che è l'esempio di tutti, ma anche in casa Udinese per dirne una. Cioè, voglio dire, alla fine poi questi vogliono i soldi perché forse li perdono per via della Champions o così, però poi alla fine è la competenza dei dirigenti, degli allenatori, non lo so bene nemmeno io, perché la Juve è una, penso sia un esempio di cattiva conoscenza del calcio. Beh, in questi ultimi anni dire che ne abbia azzeccate, cioè non ha sbagliato tutto, non esageriamo come sta dicendo lei, ma dire che ne abbia azzeccate molto e soprattutto rimosse chiave non si può dire. Poi questo non toglie che magari va a sapere, visto come il calcio finirà per centrare addirittura l'obiettivo più grande in questo finale, perché adesso si gioca di nervi, si gioca di condizione. Mi sembra che la Juve la condizione fisica, se non altro, senza esagerare, ma ce l'abbia ancora. E comunque più della Lazio, che mi è sembrata, la Lazio ha giocato meglio, certamente ha avuto più iniziativa, però mi è sembrata più sul passo che non sulla corsa. La Roma di domenica sera era letteralmente inguardabile, ma per usare un eufemismo. L'Udinese sembrerebbe poi, anche per via di infortuni, in caduta libera, e quindi magari va a finire che poi alla fine li mette d'accordo, queste tre che lottavano le mette d'accordo tutte la Juventus. Certo, se parliamo della qualità, se parliamo di come ha giocato ieri sera la Juventus, il risultato non somiglia un granché a come la partita è stata. Paolo Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, complimenti, sono sempre da farvi alla trasmissione. Io volevo dire solo una cosa, sono un tifoso giuventino simpatizzante. I giocatori invece di fiscare la squadra, i tifosi invece di fiscare la squadra, dovrebbero fiscare loro stessi per il comportamento che hanno avuto ieri sera. Perché è una cosa schifosissima, mi scusi il termine, da vedere. In televisione un minuto di silenzio si mettono a fiscare la morte di un ex giocatore della squadra avversaria, mi sembra una cosa molto indegna, indecorosa, e ripeto, dovrebbero vergognarsi loro, non fischiare la società o i giocatori, perché l'annata non è come si prevedeva. Tutto qua. Completamente d'accordo. La memoria di un signore come era, anche se non di primissima fila, ma di un signore come è stato Polentes, meritava ben altro ricordo che non i fischi di quei poveri mentecatti, questo è oggettivamente vero. Ultimo intervallo di oggi per sentire come va sulle autostrade e sulle strade. Ma in soldoni, domanda Gaetano da Lucca, una squadra come il Chievo quanto prende all'anno di diritti televisivi? Gaetano, 24 ore di pazienza, anzi meno, queste cifre le trova domattina su Sole 24 Ore e il giorno dopo le sente commentate, dettagliate e sviscerate da Marco Bellinazzo, cioè da noi qua. Giovedì, due notizie di giornata, un vertice in prefettura a Genova perché è in discussione l'orario delle 20:45 del derby di domenica sera, perché appunto per ragioni di ordine pubblico si sta pensando di anticiparlo alle 15. E poi da parte del Viminale l'autorizzazione ai tifosi della Roma a seguire la squadra, che in un primo tempo era stata bloccata invece dal famoso CASMS, a seguire la squadra l'11 maggio a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Adesso la rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 maggio 1953. Dopo 13 anni, l'Inter torna a vincere lo scudetto. La certezza matematica arriva dopo un successo in casa contro il Palermo per 3-0, con un gol dello svedese Lennart Skoglund e due del franco-ungherese István Niers. Con 15 gol, Niers ha avuto un ruolo fondamentale nel trionfo nerazzurro. Veloce e potente, è stato uno degli attaccanti più completi e prolifici degli anni 50 e ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo, come protagonista della movida milanese e per il vizio del gioco d'azzardo. Chiusa la carriera calcistica, Niers finisce presto nel dimenticatoio. È morto nel 2005, a 80 anni, nella città serba di Subotica, dopo una vecchiaia vissuta in povertà. Sarà Jacques Brunel, leggo da un'agenzia appena arrivata, il nuovo CT della nazionale italiana di rugby e prenderà il posto del dimissionato Nick Mallet e entrerà e assumerà il ruolo al termine della Rugby World Cup Nuova Zelanda 2011, programmando fino al 23 ottobre, quindi in pratica dalla fine di ottobre, ripeto, il francese Jacques Brunel. Ha chiamato Daniele dalla provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Una piccola considerazione, perché ieri sera a momenti cadevo in depressione vedendo giocare la Juventus, veramente una cosa inguardabile. No, una considerazione sugli allenatori, perché adesso si sta facendo un po' il totto allenatore su chi sarà il successore di Del Neri, tutto quello che lei vuole. Però io volevo provare a fare una piccola difesa di Del Neri, che non sarà certamente una cima, ma è comunque sia un allenatore più che discreto. Il problema di Daniele è che ha a disposizione dei giocatori che, a mio modesto parere, sono inguardabili. Parlo di Motta, cioè sono tutti giocatori che l'esterno destro in particolare di ieri sera, cioè Motta prima, ma Salihamidžić dopo anche, ma l'ha visto Salihamidžić? Ma guardi, sì, che poi a un certo punto a 3 minuti alla fine ha tirato questa scarpata verso il centro del campo che come c'è, cioè un cross che in promozione forse rischi di prendere i fischi, e però la liscia non l'ha presa, chi era, Toni mi pare, no, l'ha lisciata, sì. Toni, quell'altro corner, è arrivato il gol della vittoria, e dopo è chiaro che in una situazione di pressione come questa anche Del Neri dice vittoria meritata, che è una cosa che qualche anno fa si sarebbe vergognato di pensare, conoscendo bene Del Neri. Però quando sei sotto pressione a sta maniera, poi succede così, insomma. No, certamente. Il fatto che Salihamidžić è scusato, perché comunque sia quest'anno lui è sicuro di andare via, tutto quello che vuole, diciamo che ha fatto il suo tempo anche lui nella Juventus. Ma Motta dovrebbe, secondo sempre il mio parere, cercare di dimostrare di essere un giocatore perlomeno da Serie A. Le dirò che anche un paio di altri giocatori di ben diverso nome ieri sera, cioè, è meglio stenderci un velo, perché insomma, se no si rischierebbe di infierire. Poteva essere una serata storta, non è stata l'unica di quest'anno, ma certo sono state abbastanza tristi. Dunque, Barça Real, 2000 agenti della polizia catalana mobilitate per stasera, continuano a uscire agenzie di vigilia, ormai mancano poche ore alla partita. 2000 agenti sono tanti per le abitudini spagnole, ma la partita viene considerata ad altissimo rischio, non solo ad alto rischio, ad altissimo rischio. E poi c'è AS, che è un quotidiano madrileno vicino al Real Madrid, e quindi non stiamo parlando di, cioè non sto citando opinione di come dire di area barcellonista. AS ha raccolto una serie di opinioni sul conto del più recente Mourinho, no? Cioè del Mourinho madridista, non di quello che era all'Inter o di quello precedente. Allora, e ripeto, AS è un quotidiano vicino al Real Madrid. Hitzfeld, che è il commissario tecnico della Svizzera, ha definito il suo gioco un gioco distruttore. Ha aggiunto: non può essere ciò che vuole Real Madrid, è una vergogna per il club, perché l'identità e l'immagine di questa società leggendaria sono state danneggiate da Mourinho. L'ho incontrato di recente, è arrogante, non fa altro che masticare gomme americane, e maleducato. Spero che il Barça lo punisca sul campo. Gus Hiddink, che adesso è il CT della Turchia, ma insomma che un tecnico che è stato uno dei principali di questi anni, ha detto che Mourinho dovrebbe scusarsi con il Barça per tutte le cose che ha detto negli ultimi tempi, e Morten Olsen, CT della Danimarca, ha tenuto a precisare di non essere mai stato un ammiratore di Mourinho, né della forma negativa in cui gioca al calcio, fa giocare al calcio, né tantomeno della sua persona. Insomma, un plebiscito. Michelangelo ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti alla trasmissione e complimenti alla radio, questa è la mia preliminare. Approfitto un minuto per riferire questo. Io fino a ieri sera sentì l'affermazione di Delleri sulla Champions League, un mesetto fa circa, quando c'erano, non so i punti che erano, 15-16, ho perso un po' il conto da buon tifoso interista. Sentì il tuo commento e penso come tutte le un po' a ridere, un po' a trasecolare. Dopo la partita di sera e dopo la partita di sera sono andato un po' a letto, poi fra pensieri, questioni, non mi sono addormentato, un po' sognavo, un po' non sognavo. Praticamente cosa ho sognato nel sogno? So già che non mi risponderà, però la butto lì come provocazione e come spunto di riflessione. Un'ipotesi di questo tipo: nel momento in cui ci sono in ballo diritti economici importanti su diritti televisivi e quant'altro, una sorta di, mettiamola così, non dico accordo, ma una sorta simile di accordo, un contatto fra Inter, Milan e Juve. Inter non gli viene tolto lo scudetto, Juve Coppa dei Campioni e Milan il trofeo vittoria del campionato. Poi mi sono svegliato e ho detto, forse penso male. Non so, Michelangelo, forse, io non so se lei pensa male o meno, diciamo che se anche non avesse preso la linea, insomma, forse il danno sarebbe stato relativo, almeno dal mio punto di vista. Non capisco che senso abbia, e cioè, che vuol dire, in che senso l'Inter potrebbe entrare in questo? Cioè, se la Juventus si qualifica per la Champions League, supponiamo, no? Si qualifica, in che modo c'entrerebbe l'Inter per seguire questo suo pensiero perverso, che purtroppo temo non sia così isolato nel nostro mondo del calcio, io dico anche del calcio perché sto leggendo Zamparini, ma dico soprattutto il mondo del tifo. Sto leggendo Zamparini che si è presentato in Lega stamane, uno dei pochi, dicendo di avere un video con 28 episodi contrari al Palermo quest'anno, no? E allora, non so, forse bisognerebbe fare un video invece con dentro Zamparini e i suoi 28 episodi, la prosa di Lotito, le task force di Lotito, e mettere un po' tutto, poi no, miscelare, mixare e servire freddo forse. Gianni, provincia di Milano, facciamo in tempo a sentirlo velocissimo. Sì, velocissimo, ho sentito Niers. Sì. Siccome le hanno fatto osservazione sui nomi, si pronuncia Niers. Siccome mi sono trovato in Ungheria e ho chiesto di Niers qualche anno fa. E nessuno le ha risposto perché non sapeva. Nessuno lo sa. Ah, Niers. Niers, ecco, grazie. Ma Niers gli ungheresi, la ringrazio. Noi qua, sa, però a quei tempi non c'erano ancora i bravi telecronisti, e quindi va a sapere. Io continuerò a chiamarlo Niers comunque, pur ringraziandola molto della sua segnalazione e a ricordarlo come un grandissimo giocatore. Grazie a Pietro Lacorte in regia, a Franco Piantanile in redazione. Buon pomeriggio.